la venuta di Gesù prima del suo ritorno per rapire la Chiesa? Che Gesù debba tornare per rapire la Chiesa non è una novità, né per chi ha posto fede in Cristo, né per gli increduli. In merito sono stati scritti dei libri, uno dei quali, dal titolo Gli esclusi, è diventato un bestseller tradotto in più di 20 lingue. Dobbiamo riconoscere che è sufficiente avere attitudine allo scrivere accompagnata da un fervida fantasia, e il gioco è fatto. Il ritorno di Cristo si presta a pensare ed immaginare situazioni di qualsiasi tipo, quali catastrofi e terrore. In molto pericoloso andare oltre a ciò che è scritto, ma comunque nel bene e nel male si annuncia che Gesù un giorno dovrà tornare per giudicare il mondo intero e per rapire coloro che hanno posto fede in Lui. Personalmente non trovo buono che si scrivano romanzi o si facciano film in merito al ritorno di Cristo, perché si corre il pericolo, e purtroppo non è solo un pericolo, di mettere il ritorno di Cristo nel pantheon della cultura e del divertimento. Visto che la verità da sola scuote le coscienze, si è pensato bene di addolcire o attutire il colpo mettendo la verità nel fascio dei passatempi degli uomini. Così si parla del ritorno di Cristo come fosse un oggetto di conversazione qualsiasi, lasciando gli animi degli uomini vaccinati nei confronti di una reale conversione. Questa è la situazione odierna, di però all'insaputa di molti, ignorato da tanti e non compreso dai più, un annuncio che Gesù fece ai suoi discepoli di un suo ritorno che non è quello del quale generalmente si parla, e cioè del rapimento della Chiesa. Poiché la promessa di questo ritorno Gesù la rilascia nel contesto di un certo ragionamento rivolto ai discepoli, occorre leggere il passaggio che lo riporta. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno mi vuole seguire, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita per amor mio la ritroverà. Che giova infatti all'uomo se guadagna tutto il mondo e poi perde la propria anima? Ovvero, che darà l'uomo in cambio dell'anima sua? Perché il Figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora egli renderà a ciascuno secondo il suo operato. In verità vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non morranno prima d'aver visto il Figlio dell'uomo venire nel suo regno». Matteo 16, 24-28. Come spesso faceva, Gesù anche in questo discorso invita le persone a rendersi conto di quanto fosse importante la sorte della loro anima. Perché possedere tutti i beni di questa terra ma non possedere la salvezza della propria anima è la più grande disgrazia che possa capitare all'uomo. In seguito Gesù si riferisce ad un evento futuro, che vede il suo ritorno per retribuire ciascuno secondo il proprio operato. Quest'episodio molto probabilmente è riferito al regno millenario, cioè quando Cristo verrà sulla terra per regnare per mille anni. È a questo punto che Gesù molto probabilmente, per associazione di idee, accosta a questa sua venuta un suo ritorno che precede quello appena accennato, dicendo: «In verità vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non morranno prima d'aver visto il Figlio dell'uomo venire nel suo regno». Chi legge gli Evangeli è abituato ai flash di Gesù, perché dopo un lungo ragionamento a volte egli butta lì un'affermazione con l'intenzione di intendere tutt'altro, che sia Gesù stesso o il redattore evangelista a passare repentinamente da un argomento ad un altro. Poco importa, anche perché in questo caso Gesù non è passato da un argomento ad un altro, ma come abbiamo detto parlando del suo ritorno per regnare, Gesù ha preso l'occasione per parlare di un altro ritorno. Questo ritorno ha due principali caratteristiche. Innanzitutto il suo ritorno è talmente imminente che alcuni dei suoi contemporanei saranno presenti. Inoltre, quelli che saranno presenti lo vedranno venire nel suo regno. Se prendiamo sul serio ciò che Gesù ha detto, non si può che rimanere sbigottiti, perché da sempre i cristiani sostengono che Gesù non è ancora tornato per regnare e neppure è stato visto. Si potrebbe pensare ad un discorso figurativo, e cioè che quello che Gesù ha detto è solo simbolico, ma questo metodo di lettura non regge. perché se è simbolico questo ritorno, è simbolico anche il ritorno per regnare sulla terra. L'accostamento di Gesù al regno millenario non ci permette di pensare ad un discorso allegorico, anche perché ha fatto la premessa con una garanzia, nell'espressione "in verità vi dico", cioè ciò che sto per dire è garantito. Un'allegoria non ha questa premessa. Per forza di cose allora si è costretti a comprendere il discorso di Gesù e puntualizzare tre punti. 1. Cosa voleva intendere Gesù? 2. Chi sono stati coloro che erano presenti a questo ritorno di Cristo? 3. Come è stato possibile che alcuni abbiano potuto vedere Gesù senza che altri lo vedessero? L'argomento del ritorno di Cristo è sempre stato oggetto di interesse e di attesa per i primi cristiani, al punto che al tempo dell'Apostolo Paolo i credenti di Tessalonica erano talmente infervorati da pensare che Gesù fosse già tornato. Nulla di strano, perché molto probabilmente questi credenti avranno preso alla lettera ciò che Gesù ha detto. Gesù non ha forse detto che sarebbe tornato mentre i suoi contemporanei erano viventi? Cosa c'era di male, quindi, nel sostenere che Gesù era già tornato? Davanti alla preoccupazione di Pietro nei confronti di Giovanni, Gesù non ha forse risposto: "Se io voglio che lui rimanga finché io venga, che te ne importa?" Ancora una volta Gesù getta una delle sue frasi enigmatiche, al punto che i suoi contemporanei pensavano che Giovanni non morisse fino a che Gesù non fosse tornato. E questo in accordo con quello che Gesù aveva detto, e cioè che alcuni di coloro che sono qui presenti non morranno prima d'aver visto il Figlio dell'uomo venire nel suo regno. Forse Giovanni era uno di questi. A complicare le cose ai cristiani è stato anche l'Apostolo Paolo, quando in una sua lettera in merito al ritorno di Cristo si espresse esattamente con queste parole: "Ora, fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono, affinché non siate contristati come gli altri che non hanno speranza. Infatti, se crediamo che Gesù è morto ed è risuscitato, crediamo pure che Dio condurrà con lui, per mezzo di Gesù, quelli che si sono addormentati. Ora vi diciamo questo per parola del Signore: noi viventi, che saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo coloro che si sono addormentati. Perché il Signore stesso, con un potente comando, con voce di arcangelo, con la tromba di Dio, discenderà dal cielo, e quelli che sono morti in Cristo risusciteranno per primi. Poi noi viventi, che saremo rimasti, saremo rapiti assieme a loro sulle nuvole, per incontrare il Signore nell'aria. Così saremo sempre col Signore." Sfido chiunque a leggere questo discorso di Paolo e pensare che il ritorno di Cristo fosse un evento molto lontano. L'Apostolo ha usato per due volte l'espressione "noi puniti", e chiunque legge è costretto a ritenere che il ritorno di Gesù fosse imminente. Ed è quello che fecero i credenti di Tessalonica, al punto che Paolo dovette scrivere una seconda lettera per correggere la loro interpretazione sbagliata. Dunque, se non abbiamo compreso la promessa di Gesù, siamo in buona compagnia. Ma ora occorre spiegare ciò che Gesù voleva intendere quando disse che alcuni suoi contemporanei lo avrebbero visto venire nel suo regno. Una cosa è certa: dopo la sua resurrezione Gesù è stato visto da molte persone. La testimonianza di Paolo non lascia dubbi. "Ora, fratelli, vi dichiaro l'Evangelo che vi ho annunziato, e che voi avete ricevuto e nel quale state saldi e mediante il quale siete salvati, se ritenete fermamente quella parola che vi ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano. Infatti vi ho prima di tutto trasmesso ciò che ho anch'io ricevuto, e cioè che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le Scritture, che fu sepolto e risuscitò il terzo giorno secondo le Scritture, e che apparve a Cefa e poi ai dodici. In seguito apparve in una sola volta a più di 500 fratelli, la maggior parte dei quali è ancora in vita mentre alcuni dormono già. Successivamente apparve a Giacomo e poi a tutti gli apostoli insieme. Infine, ultimo di tutti, apparve anche a me, come all'aborto. 1 Corinzi 15, 1 a 8. Dunque Gesù è stato visto dopo la resurrezione avvenuta prima del suo ritorno per rapire la Chiesa. Questo fatto è molto importante perché se alcuni discepoli, spauriti, increduli e codardi, hanno potuto con la loro vita e testimonianza cambiare il volto al mondo, non poteva esserci che un evento unico e particolare, E questo evento è stato la resurrezione del loro maestro. Inoltre, è anche fuor di dubbio che il regno di Cristo è presente dal momento della sua resurrezione, tanto è vero che, sempre Paolo, poté scrivere ai credenti della città di Colosse: «Rendiamo grazie a Dio e Padre, che ci ha fatti degni di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Poiché Egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati», Colossesi 1:12-14. Dal giorno delle Pentecoste in poi, chiunque pone fede in Cristo quale solo unico, Salvatore e Signore entra a far parte della Chiesa, nasce di nuovo, riceve lo Spirito Santo, che Paolo definisce anche lo Spirito di Cristo, Romani 8:9. La Chiesa è, nello stretto termine, il regno di Dio, cioè di Cristo, della quale Chiesa Cristo ne è il capo. Ecco dunque avverarsi alla lettera ciò che Gesù preannunciò ai suoi contemporanei. Prima del suo ritorno per rapire la sua Chiesa, Gesù si è fatto vedere ad alcuni suoi contemporanei nel suo regno. Un regno che non può essere visto e nel quale non si può entrare se non si realizza una nuova nascita, nascita prodotta mediante l'ascolto del messaggio che Cristo è morto e risorto per riconciliare l'uomo a Dio e mediante l'opera dello Spirito di Cristo. All'uomo non resta che l'atto di fede per poi attendere di vedere Gesù ritornare dal cielo per rapire la Chiesa della quale ormai lui fa parte. Novembre 2005, Ellero.